sempre, addio, sante memorie, addio, sublimi incanti del pensiero, addio, schiere fulgenti, addio, vittorie, tardi volati e volanti corsie. Addio, addio Messina, trionfale via, a te resto in manti sul mattino. La moria canti di battaglia, addio, della gloria da te. Oh,